Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza puntata di Pillole di consapevolezza, impariamo a volerci bene su Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e faccio parte di Energicamente. Come sapete, sono un'esperta di rimedi floreali. Nella prima puntata vi avevo introdotto nel magico mondo dei fiori di Bach, parlandovi in generale di che cosa sono, a che cosa servono e introducendovi al pensiero filosofico, oltre che raccontandovi un po' della storia della vita del dottor Bach. Nella seconda puntata invece avevamo visto i fiori per la paura e i fiori per l'incertezza. Oggi andremo avanti affrontando altri gruppi di fiori, ma prima di entrare nel vivo della puntata, come sempre vorrei leggervi un estratto da uno dei libri del dottor Bach. La malattia e il male non sono da conquistarsi lottando direttamente, ma facendo prendere al bene il loro posto. Il buio è rimosso dalla luce, non da buio maggiore, l'odio dall'amore, la crudeltà dalla simpatia e dalla pietà, la malattia dalla salute. Non combattete i vostri guai, non lottate contro la vostra malattia, non aggrappatevi alle vostre infermità, piuttosto dimenticatele, concentrandovi sullo sviluppo della virtù di cui avete bisogno, essere se stessi. Bene, andiamo avanti con il terzo gruppo. Fiori per l'insufficiente interesse nelle circostanze presenti. Clematis. Questo rimedio aiuta quando i propri pensieri sono volti troppo al futuro e non abbastanza al presente, o quando ci si trova a sognare ad occhi aperti. Le persone clematis possono apparire assenti, prighi, tendenti a scivolare in un mondo tutto loro. Il rimedio aiuta quando ci si lascia distrarre o si manca di concentrazione e permette di trarre piacere dall'avere qualcosa a cui aspirare, apprezzando tuttavia anche il presente. Honeysuckle. I fiori rosa del caprifoglio selvatico forniscono il rimedio per le persone i cui pensieri indugiano nel passato. In questo stato talvolta si rivivono ricordi felici, mentre altre volte la nostalgia sfuma in malinconia, rimpianto o perfine nel perpetuarsi di eventi spiacevoli. Honeysuckle sblocca la mente, riporta a focalizzarsi sul presente, così che si possa trarre piacere e imparare dal passato senza esserne intrappolati. Wild Rose, la rosa canina comune fiore, fornisce il rimedio per coloro che scivolano nell'apatia e mancano di motivazioni. Le persone Wild Rose accettano la vita com'è, senza sentirsi particolarmente contente o scontente della propria situazione. Nella malattia ci rassegniamo alla propria sofferenza. Il rimedio aiuta le persone in questo stato a trovare la scintilla che accende l'entusiasmo, che a sua volta rende la vita più eccitante e gratificante. Olive. Questo rimedio è indicato per quando ci si sente esauriti a causa di sofferenza o per l'eccesso di lavoro o fatica di qualunque genere. Ci si sente sfiniti e si ha difficoltà a sbrigare le abituali incombenze quotidiane. Il rimedio aiuta a ritrovare energie in modo naturale, permettendo di attingere nuovamente alle proprie riserve, oppure favorendo il riposo e la ripresa. White Chestnut. Il rimedio White Chestnut è indicato per i pensieri persistenti, argomentazioni mentali, idee e preoccupazioni che girano e rigirano, generalmente quando non c'è più interesse sufficiente che tenga la mente occupata. Talvolta questi pensieri ripetitivi causano insonnia, perché chi ne soffre non riesce a liberarsene e a rilassarsi. Il rimedio aiuta a ristabilire la tranquillità d'animo. Mustard. Questo rimedio è indicato per la tristezza e la depressione, che si manifestano senza alcun motivo apparente. Non c'è nulla su cui si possa puntare il dito dicendo: questa è la ragione per cui mi sento giù. Lo stato Mustard discende come una nube oscura, gettando un'ombra sulla gioia di vivere. Mustard aiuta a scacciare le ombre e a riportare la serenità. Chestnut Bud. Questo rimedio, ricavato da una germa di ipocastano, è indicato quando non si fa tesoro dell'esperienza e si continuano a ripetere gli stessi errori. Il rimedio aiuta a rendere osservatori più attenti ed ad apprendere con maggiore facilità le lezioni della vita quotidiana. Altro gruppo che andiamo a affrontare sono i fiori per la solitudine. Water Violet. Questo rimedio è indicato per le persone che in genere prediligono uno stile di vita solitario. Non amano imporre la propria presenza e a loro volta non desiderano che venga loro imposta quella altrui. Tengono i propri affari per sé e amano mantenere la privacy. Serene e indipendenti, le persone Water Violet affrontano la giornata con calma e efficienza, ma talvolta possono apparire distaccate e presuntuose e innalzare una sorta di barriera intorno a sé, ponendo così una distanza tra se stesse e gli altri. Ed è proprio allora che possono iniziare a sentirsi soli. L'assunzione del rimedio aiuta ad abbassare una tale barriera, consentendo loro di ricominciare a trarre piacevole compagnia dagli amici. Heather. In un certo senso le persone Heather sono l'opposto di quelle Water Violet. Hanno bisogno di compagnia e si sentono sole se non hanno nessuno con cui parlare. In tali circostanze tendono ad attaccare bottone con chiunque le stia a ascoltare e si lasciano talmente assorbire da se stesse da avere difficoltà a smettere di parlare. La gente inizia così a evitarle, il pericolo di trovarsi solamente. Heather aiuta questi soggetti ad allontanare la mente da se stessi, a dar meno importanza ai loro problemi e a divenire ascoltatori e compagni migliori. Impatience. Come succede per le persone Water Violet, anche nello stato Impatience si ha la tendenza ad essere solitari. La motivazione sta nella percezione di un'eccessiva lentezza altrui, preferendo di conseguenza procedere seguendo il proprio ritmo. Si lavora, si parla e ci si muove velocemente, spesso con un senso di urgenza, e si tende ad innervosirsi facilmente, a finire le frasi degli altri o a preoccuparsi dei loro lavori per poterli svolgere da sole con maggiore sollecitudine. Questo genere di insofferenza può causare irritazione e tensione, e quando si cade in questo stato, Impatience aiuta ad adottare un ritmo più rilassato e ad essere più pazienti. Affrontiamo l'ultimo gruppo per oggi. Fiori per quelli ipersensibili alle influenze e alle idee. Agrimoni. Questo rimedio è indicato per le persone che nascondono le proprie preoccupazioni, paure o ansie dietro una naturale allegria. Non danno peso alle proprie difficoltà e fingono che tutto vada bene, perché non amano lamentarsi. Si tratta di persone gioviali e allegre, amanti della tranquillità e disturbate dai litigi. Preferiscono sbarazzarsi con una risata dei vari problemi, quasi non fossero importanti. Il rimedio aiuta queste persone ad alleviare la loro angoscia nascosta, incoraggiandole e a condividere più apertamente i propri problemi, trovando il modo di affrontarli anziché negarne l'esistenza. Centauri. Le persone centauri sono gentili, cortesi e decisamente desiderose di compiacere gli altri. Trovano difficile dire di no e possono adoperarsi senza risparmio o permettere che ci si approfitti facilmente di loro. Talvolta la disponibilità di tali persone si dà per scontata o si abusa della loro naturale generosità. Questo rimedio aiuta a far emergere la loro forza interiore, così che non riescano a farsi valere e a fronteggiare il predominio altrui. Walnut, i fiori femminili del noce, forniscono questo rimedio che aiuta quando, pur avendo scelto il proprio percorso di vita, ci si lascia distrarre dalle circostanze e dalle idee altrui. Il rimedio sostiene e protegge da tali influenze e aiuta inoltre ad adattarsi agli eventuali cambiamenti, quali trasloco, cambio lavoro o di scuola, o affrontare ogni nuova fase della vita che provoca disorientamento o disagio. Holly. Holly è indicato per i sentimenti forti nei confronti degli altri, quali odio, rancore, invidia, vendetta e sospetto. Tali sentimenti possono corrodere l'amore dentro di noi e distruggere la felicità. E con questi fiori abbiamo concluso la puntata di oggi. Quindi vi ricordo i nostri dati: il sito web www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, la nostra pagina Facebook, i nostri numeri di telefono: Elisa 339 3860 123, Francesca 340 2345 340, Franco 329 8989 669. Vi ricordo inoltre che siamo alla mostra dell'artigianato fino al 1° maggio. E prima di lasciarvi e salutarvi, come sempre, un ultimo pensiero del dottor Bach: la semplicità è il sistema e la chiave di questo sistema di guarigione. Quindi, buon weekend, ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccio e un saluto da Elisa e ci rivediamo qui su Radio Big World.